24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Farò un master in bersanese. E mi sa che ci vorrà ancora tempo per capirla questa di tacchini e passeri. Cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:09 e oggi siamo in diretta da prima. Prendiamo il testimone da Daniele Biacchessi. Io sarò qui fino alle 10, alle 9 si unirà anche Simone Spezia. Insomma, continua la lunghissima diretta di Radio 24 per commentare i risultati delle elezioni. Avete capito qualcosa? Beh, intanto avete capito che è un gran casino. Questo si può tranquillamente dire. Milano, scommetto i miei 10 tacchini che la sinistra perde anche queste di elezioni, perché Berlusconi è stato capace di andare a prendere il suo tacchino sul tetto, cioè Balotelli, mentre Bersani è ancora lì che scivola sui pioli della scala battendo il ginocchio e il mento. Questo era un ascoltatore di un po' di tempo fa, cari ascoltatori, l'avete sentito? I tacchini, voglio salutare subito Mario Adinolfi, buongiorno Mario. Buongiorno, eccoci qua. L'ha vinti 10 tacchini questo ascoltatore. Che c'è bravo ascoltatore. Un bravo. Allevatore di tacchini probabilmente. Ma sei andato a letto, ti sei svegliato per noi? No? Cosa praticamente ho dormito un paio d'ore. Vabbè. Sì. Se, fammi salutare anche da qualche parte nel mondo, dove non lo so, Alberto Forchielli, buongiorno Alberto, dove si trova? Salve, sono appena arrivato a Shanghai. A Shanghai, la notte in bianco, ero a Hong Kong, ho fatto la notte in bianco per sentire le lezioni, poi alle 6 mi sono messo in macchina, sono andato all'aeroporto, sono arrivato adesso. Chissà chi se ne frega a Shanghai, cosa dicono a Shanghai di quello che sta succedendo in Italia, ma chi se ne frega? No, ha visto, siamo tutti imbazzurliti, sì, Forchielli, questa è la verità. Sì, siamo fuori dalla mappa, sì. Siamo fuori dalla mappa. Ne frega molto in Germania gliene frega molto, ma Cina. Chissà che gliene frega. Allora, io ho solo due giornali per il momento davanti ai miei occhi. Senato senza maggioranza, tensione sui mercati, così il Sole 24 Ore. Mentre il Corriere della Sera, voto shock, non c'è maggioranza. Io vi ricordo che i vostri contributi sono ben accetti, cari ascoltatori. I microfoni sono sempre aperti, 800 24 00 24. Allora, Mario Adinolfi, che cosa bisogna dire di queste elezioni dove il centro-sinistra ha vinto di uno 0% alla Camera e per il premio di maggioranza una consolidata maggioranza alla Camera, al Senato invece è un disastro, nel senso che al momento i seggi ripartiti sono così: 116 al centrodestra, 113 al centrosinistra, 54 al Movimento 5 Stelle, 18 alla lista Monti con l'Italia. Che facciamo? Andiamo a rivotare? Bisogna dire, prima cosa, che Grillo ha avuto un'affermazione straordinaria e prevedibile. Io ho un tweet che ho mandato a Andrea Scanzi in cui dicevo che prendeva il 25,4, mi sono sbagliato di un 0,1 decimale, per cui Grillo era evidentemente, bastava vivere un po' dentro la società e molto meno nel palazzo per capire dove stava andando il vento. Primo Bersani, partito, Grillo primo partito alla Camera. L'abbiamo detto e questa è una cosa che va detta. Il primo partito d'Italia è un partito composto da sostanzialmente persone che non hanno mai fatto politica, messe insieme da un comico che ha sbaragliato i partiti tradizionali. Alla Camera il primo partito in assoluto si chiama Movimento 5 Stelle. L'altra notizia è che Bersani non farà il Premier e pare una cosa incredibile. Perché non farà il Premier? Ieri lui ha fatto una dichiarazione in cui ha sostanzialmente detto: datemi l'incarico. E questo è quello che ha detto ieri, quando ha detto l'assunzione della responsabilità. Bersani dice: datemi l'incarico, ho preso lo 0,4 più di Berlusconi, quindi ho diritto di formare il governo. Mi pare chiaro che lo scenario impone l'impossibilità che sia Bersani quello che costruisce una maggioranza che dovrà essere composita, trasversale, probabilmente di unità nazionale, per evitare di tornare al voto, perché deve essere chiaro a questi signori che se si torna al voto domani Grillo prende il 45%. E infatti, ovvio, infatti no? lui quando no. ha detto queste sono le elezioni che sono diciamo una prova generale, poi tra sei mesi vedremo. Se sì, però riescono a fare questa fenomenata, Grillo non prende il 25, prende il 45. Allora, sì, ho capito, però che vuol dire? Se allora le alternative sono o si fa un governo e effettivamente Bersani dice per poco, ma la Camera ha vinto. Vuol dire che si fa un governo di programma, sì, perché la possibilità che Bersani si presenti con un governo Bersani al Senato che venga votato da 116-115 senatori del PDL è pari allo zero. È una sorta di unione, non di programma, non è vero, non fanno inciucci inciucini, dice Beppe Grillo, ma una sorta di mettersi insieme al Movimento 5 Stelle. Non esiste in natura. E allora basta, che facciamo? Andiamo a votare tra... No, si fa il governo PD-PDL, che si chiamerà governo di programma, PD-PDL Monti, chiamiamolo come volete. Il governo di responsabilità. No, si fa di programma, cioè nel senso... Beh, di responsabilità nel senso che si mettono insieme... Di responsabilità non può essere, perché questi qui sono... Irresponsabili. Deve essere scritto che devono fare quattro cose, tra cui la riforma della legge elettorale, perché tutta evidenza non funziona... E una volta fatto queste cose e avendo quindi dimostrato un minimo di efficienza, potranno andare al voto. Io credo, francamente, non più tardi delle prossime europee, che sono quelle di giugno 2020. A giugno, quindi si vota subito, in pratica, 2-3 mesi. Questo è uno scenario. Un anno e tre mesi. Ah, un anno e tre mesi, già giusto. Sì, cioè, giugno 2014. In questo, ma io dico, ma non si sono messi d'accordo a fare la legge elettorale? Perché si dovrebbero mettere d'accordo adesso? Perché dice, perché altrimenti spariscono, perché il PD non prende il 25, prende il 10 al prossimo giro. Segnalo che Bersani ha perso anche a Bettola, per carità, sono piccoli segnali, però questo... Bersani è uno che porta il partito al 25, quando a dicembre i sondaggi lo davano al 38 dopo le primarie. È qualcosa, si dovrebbe dimettere oggi, non chiedere l'incarico di formare il governo. Si dovrebbe dimettere oggi. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi voglio andare ad Alberto Forchielli. Mi sono arrivati i giornali, c'è solo la vignetta di Vauro qui che campeggia, c'è Napolitano dentro la gabbietta, sapete, di Titti, no? il canarino, mi è sembrato di sentire un boom. Non è male questa di Vauro. Mi è sembrato di sentire un boom. E ovviamente il voto 5 stelle. 24 mattino. Vengo dalla campagna, cresciuto al mare, alla mano come il tuo palmare. Pronti via, si va per mari e monti via, monti via. Linguaggio. Eh sì, monti via è una delle degli elementi di queste elezioni, come canta Fabri Fibra. Lo facciamo per svegliarvi, cari italiani. Sono le 16:07 minuti, noi siamo in diretta, continuiamo la diretta notturna da Daniele Biacchessi e voglio andare da Alberto Forchielli, che ci ha accompagnato un po' in tutte queste elezioni, anche con le sue corrosive e con i suoi corrosivi giudizi sull'Italia. Allora, qua Forchielli, che dobbiamo pensare? Sentito Adinolfi, ha detto qua bisogna fare un governo PDL-PD, fare quelle quattro cose che servono, tra cui la legge elettorale, poi tra un anno e mezzo andare a votare, perché sennò spariscono. Vista da lì, da Shanghai, com'è la situazione? Ma credo che noi ci aspettiamo troppo dalla politica, cioè noi pensiamo che la soluzione dei nostri problemi sia la politica. Beh, un governo, realtà, almeno fare un governo, quello ci aspettiamo, sì, cose minime. Sì, no. sì, d'accordo, però anche una volta che c'è un governo, gli italiani ancora non hanno capito che sacrifici hanno davanti, continuano a non volere vedere la situazione in cui si trovano e si aspettano una magica soluzione politica che li sollevi dai problemi. Abbiamo un debito enorme, abbiamo una popolazione molto anziana che costa moltissimo in termini di pensione e in termini di sicurezza, assistenza sanitaria. Abbiamo un settore pubblico stracolmo, stracarico, estremamente inefficiente, con la burocrazia paralizzata. È un paese che rispetto al mondo non si muove e non c'è nessun partito, nessun governo che sia disposto ad affrontare questi problemi. Lo so, ma il problema è che senza un governo tutti questi problemi a maggior ragione si possono risolvere. Anche se si fa un governo, poi tutti i problemi non li affronta. Per cui dal mio punto di vista è completamente indifferente. Indifferente. Cioè, hanno fatto a gara tutti per negare i problemi. Io ieri ricordavo questo, non so se era tra la provocazione, ma anche no. È vero che noi non siamo il Belgio, però... quello che dice Forchielli, ad inolfi in Belgio sono stati 2 anni senza governo. Abbiamo avuto notizie della scomparsa del Belgio che mi sono persi? Ragazzi, ma non diciamo. No, ho capito. No, ma non è che. No, ma non lo dico come una cosa. No, ma non lo dico come una cosa positiva. Però. Io dico tecnicamente cosa significa? Cioè, che noi domani diamo un incarico a uno, nessuno forma il governo. Ho capito, ma se ci sono in questo momento 3 poli, diciamo così, e quindi non si trova. Se non si trova la quadra, si torna a votare. Cioè, non è che. E che succede? Se si torna a votare. Grillo prende il 45, secondo me. Alla fine governa meglio di questi altri. Devo essere sincero, non credo che le persone comuni che Grillo ha portato in Parlamento siano, l'ho visto dall'interno, peggiori dei parlamentari. E io ho fatto parte del Parlamento, di una commissione importante del Parlamento. C'è gente che non parla l'italiano, ragazzi. Cioè, la famosa classe politica, che uno chissà che si aspetta, è fatta da una massa... che almeno all'85-90% di ignoranti non parla non italiano. Sa cosa fare. No, parlano pure italiano alcuni. Diverso. C'è un 10% di persone serie in Parlamento, ma la massa, il 90% dei parlamentari. È fatto ho capito, ma allora vai dalla parte di Forchielli, dice ma chi se ne frega della politica? No, siamo ancora qui appesi a pensare che la politica ci dia le risposte. Cos'è che ha prodotto il disastro italiano, Alessandro? Cosa? La politica, la classe dirigente politica. Non è che possiamo dire che la politica non conta nulla, la politica voglia se conta nella nostra vita, è talmente accontato che ha portato l'Italia al disastro. A questo proposito... Una classe politica decente non avrebbe prodotto i 2.000 miliardi di debito pubblico. Sì, è chiaro. Ma tra l'altro tra poco andiamo anche agli ascoltatori. Forchielli, come la vede la vittoria di Beppe Grillo? Una sorta di voto di protesta, cioè la gente che questa politica non ne può più, oppure un voto costruttivo, cioè diamo spazio a persone nuove, a persone che non hanno esperienza, che magari vogliono fare le cose concrete, Forchielli? Si spiega, è quasi inevitabile, è una reazione molto normale perché la politica italiana fa vomitare, per cui quella di Grillo è una rivoluzione non forcaiola, pacifica, democratica, ma è una rivoluzione, è un rigetto rispetto al sistema, quindi non vedo niente di straordinario, lo vedo anche fisiologico. Il problema è che adesso ha preso tanto lui, 25%, ha preso forse più di quanto si aspettasse. Sì. Quando uno incomincia ad avere il 25%, incomincia ad avere delle responsabilità. Non è che può fare sempre... tutti i ladri, tutti qua, tutti là, deve anche progettare qualcosa. Con tutta la simpatia per Grillo, io l'ho sentito a un'intervista che lui ha rilasciato all'NBC americana. Sì. Ed era una roba che non sa fare 2+2. A proposito dell'NBC. Gli hanno fatto 5 domande, lui ha risposto la stessa cosa alle 5 domande. Sì, tra l'altro tra poco vi faremo sentire anche una parte, ha risposto anche in inglese, ma tra poco ve la faremo sentire. Sì, no, con un inglese maccheronico, allora, degli eroi. Allora vabbè, se lo dice subito. Poi a un certo punto... No, allora mi brucia l'audio, allora lo devo far ascoltare subito. Beppe Grillo, che sentite Beppe Grillo così, si fa anche per scherzare. A un certo punto quella della CNBC gli chiede di dire qualcosa in inglese, spiegare cos'è il movimento in inglese, sentite. It's a movement of civility of in the future. It's a dream, it's a utopic realist. Okay? It's an epidemic. You must see this movement like virus, you understand? Virus. You understand? Qua Mario, almeno sull'inglese deve un attimo applicarsi. No, perché... no, quello lì è un inglese neanche da prima media. No, vabbè. Ha fatto 5 errori su tre non parole. L'hanno votato, Mario, non l'hanno votato per parlare in inglese. No, ma poi a un certo punto ha detto, Rutelli, perché noi abbiamo dei premi Nobel che ci assistono, abbiamo Joe Stiglitz, che chissà della se... Banca Mondiale, cioè, voglio dire, no, chissà se è lì vero. È stato una tragedia. Vabbè, una tragedia. Ma comunque Mario non l'hanno votato per parlare in inglese. Poi, è stata fatta una scelta. Poi dopo io voglio dire, c'è un elemento, adesso sono stati eletti 110, 120 deputati, 45, 50 senatori, sono persone, bisogna andarle a vedere, insomma, queste, non c'è Grillo in Parlamento, ci sono delle persone che dovranno imparare. Sì, sono 54 al Senato, 108 alla Camera, quindi sono 160 più o meno. 160 parlamentari che verranno messi alla prova e di cui io tutto sommato mi fido. Guarda, questi... Ti dirò, anch'io, sentiamo degli ascoltatori. Massimo D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Dica, Massimo. Niente, senti, io ho votato Grillo come voto di protesta, di rabbia. Ho sempre votato a destra e questo siamo arrivati al momento in cui bisogna spostare un po' la vecchia politica, dei vecchi personaggi e dare spazio ai giovani. E l'errore fondamentale di questa mancanza di un governo stabile, secondo me, è stata data da Bersani. Da Bersani, perché? Bersani doveva spostarsi, non far neppure le primarie, appoggiare lateralmente Matteo Renzi. Ecco. Ma guardi, che lei la pensa come Mario Di Nolfi, Mario Di Nolfi ha appoggiato Renzi, figurarsi. Io anch'io la penso così, ma insomma, adesso poi col senno di poi è facile dire ci voleva Renzi avrebbe sbaragliato. Io penso così, ma magari mi sbaglio, non so. A Di Nolfi tu pensi così e ti sbagli anche tu, magari. Immaginate che insomma io avrei voluto Matteo alla prova dei fatti e tutto sarebbe con ogni propria andata diversamente, perché anche una cosa di cui non abbiamo parlato è il ruolo che ha svolto Berlusconi in questa campagna elettorale, ha fatto un risultato clamoroso, con Renzi in campo non si sarebbe neanche candidato, insomma, quindi allora questo fattore non è un fattore secondario. Sentiamo anche Lucio da Napoli, buongiorno. Lucio. Salve, buongiorno. Io per non svegliare le bimbe sono fuori al balcone. Non svegli le bimbe, aspetti, parli un po' più piano. No, per carità, mi dica. Mi permetto di fare varicato in questo clima disastroso, perché chiamavo anch'io per dire che purtroppo l'inizio della debacle è stato proprio quando Bersani non ha capito che comunque c'era un'atmosfera da secondare, da abbracciare, da quella che aveva interpretato Renzi. Lei ha mai sentito Bersani dire io porterò con me tutta la vecchia nomenclatura del PD? Cioè, essere chiaro in queste cose. Ha detto un po' rinnovo, però questo secondo lei, la mancanza di rinnovamento, gli italiani non hanno visto un rinnovamento davvero vero nel Partito Democratico e non l'hanno votato per questo. Sì, però dall'altra parte che rinnovamento c'è stato? C'era Silvio Berlusconi, cioè Lucio, capisce? Sì, e questa è la tragedia vera, purtroppo, dal mio punto di vista. Berlusconi ha colto di meglio quello che il paese avrebbe voluto in questo momento, e che le devo dire, 20 anni di berlusconismo non sono servite a niente, a dissuadere la gente. La gente va a votare così. Grazie Lucio, rientri di soppiatto ovviamente in casa senza svegliare le bambine, per carità. Allora dico due o tre titoli, sono arrivati i giornali. Repubblica, boom di Grillo, Italia ingovernabile. Il Giornale, miracolo Berlusconi. Il Messaggero, ha vinto l'ingovernabilità. Il Fatto Quotidiano, Grillo boom, batte tutti e li spinge all'ammucchiata. L'Unità, la Camera al centro-sinistra, Senato paralisi, Grillo trionfa. La Stampa, Grillo boom, Parlamento bloccato. E vabbè, abbiamo letto prima già il Corriere, il Sole, il Corriere, voto shock, non c'è maggioranza, il Sole, Senato senza maggioranza, tensione sui mercati. 24 mattino. Eccoci, sono le 6:35 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora oggi siamo partiti dalle 6 e abbiamo ereditato il testimone da Daniele Biacchessi, tutta notte in diretta, siamo qui a commentare le elezioni, andremo avanti tutto il giorno fino alle 13, poi si unirà anche Simone Spezia alle 9. Allora abbiamo un ascoltatore che era rimasto indietro, Alberto da Udine, che ci ha chiamato all'800 24 00 24, microfoni aperti. Alberto, buongiorno. Buongiorno caro dottor Milani. Eccoci. Niente, guardi, io sono uno che ha votato il Movimento 5 Stelle. Sì. E praticamente parlo del mio caso personale, cioè fondamentalmente, almeno dal mio punto di vista, molti fanno l'errore di pensare, quando senti parlare, a cosa hai votato Grillo? Ah, rottura, secondo me è un pochettino diversa la cosa, perché io credo che lui abbia dimostrato nel breve periodo, diciamo, che ha, sì, ha in mano, diciamo, il discorso politico, ha dimostrato, ad esempio Parma eccetera, che effettivamente sindaco, giunta eccetera, hanno effettivamente tagliato i costi della politica, almeno parzialmente, o perlomeno ha fatto vedere qualche cosa di tangibile, di concreto. Quindi non è un voto, lei dice tutt'altro, un voto di protesta, no, un voto, è un voto per qualcosa di... È vero di... questo, sì. È vero questo, soprattutto per quelli che hanno votato, che prima votavano a destra o a sinistra. Chiaramente lui ha portato via ovviamente dei voti a destra e a sinistra, perché è ovvio, o anche al centro. Comunque lui è a parte, chiaramente. Il paese è spaccato in tre, è evidente. No, ma è chiaro. Però dal mio punto di vista, guarda, le dico, io facevo l'autonomo. Sto tornando un disastro di soldi all'Equitalia per soldi che non ho incassato, perché la ditta dove lavoravo è fallita, e purtroppo questo di tangibile io c'ho questo. Mi alzo alle 5 di mattina, sto facendo un lavoro abbastanza anche impegnativo a livello chilometrico, ed effettivamente Grillo ha detto una cosa che a me è piaciuta molto, ovvero adesso dovranno rispondere da quando sono partiti. Adesso faremo un controllo fiscale. Evidentemente devono rispondere di quello che hanno fatto, rubato, portato via. No, ma lei ha votato convinto il Movimento 5 Stelle. Grazie Alberto. Questo mi permette di salutare il primo nostro ospite politico. Si tratta di Enrico Cappelletti, a cui do il buongiorno. Buongiorno Cappelletti, eccoci qua. Buongiorno. Movimento 5 Stelle Veneto. Lei è stato eletto ovviamente alla Camera, anche perché il Movimento 5 Stelle in Veneto è il primo partito, quindi non solo a livello nazionale alla Camera, ma in Veneto anche tradizionale feudo leghista, comunque del centrodestra, primo partito Movimento 5 Stelle. Adesso Cappelletti avete in mano una gran bella responsabilità. Sì, intanto mi lasci dire che sono molto soddisfatto di questo risultato. Siamo solo all'inizio, siamo all'inizio di una rivoluzione pacifica che sta un po' alla volta portando i cittadini a riprendersi in mano una fetta del loro destino che per troppo tempo hanno delegato. E questo risultato è stato raggiunto in solo 3 anni, perché 3 anni fa il Movimento 5 Stelle non esisteva, e senza un euro di rimborsi elettorali. Ecco, forse la prima domanda che a me viene da pormi, e pongo anche a lei e ai suoi ascoltatori: ma quanti voti avrebbero preso gli altri partiti se come noi, come Movimento 5 Stelle, avessero rinunciato a tutti i contributi elettorali? Ma questa è un po' la dimostrazione che molto o parte del successo del Movimento 5 Stelle si deve al disastro della politica fatto finora, dei tradizionali partiti, o no? Beh, assolutamente sì, basta citare che dal 92 al 2012 è più che raddoppiato il debito pubblico, e che negli ultimi 10 anni il tasso di sviluppo in Italia fa gara con quello di Haiti, che è l'ultimo del mondo. Senta Cappelletti, che succede? Adesso ovviamente c'è molta curiosità per questa truppa, diciamo, del Movimento 5 Stelle che sbarcherà a Camera e Senato. Sono i seggi attribuiti al Senato, sono 54, ma soprattutto alla Camera 108. E c'è l'ingovernabilità. Che farete al Senato? Grillo ha già detto niente inciuci o inciucini, però qualche numero bisogna ricomporlo in qualche modo come maggioranza. Voi come vi comporterete? Beh, se la domanda è se faremo alleanze, la risposta è no, è previsto nel nostro programma in maniera molto chiara e esplicita. Detto questo, è anche vero che la nostra posizione non è mai stata una posizione di opposizione a prescindere, basta guardare nel caso che è illuminante della Sicilia e quindi del sostegno che offrono la squadra di 15 consiglieri regionali siciliani del Movimento 5 Stelle per l'approvazione di tutti quei provvedimenti che sono in linea, che sono considerati in linea appunto con il programma del Movimento. Quindi, questo direi... però cosa vuol dire? Che si va a rivotare? Perché così come si fa? Ci sono su 301 seggi al Senato finora attribuito 116 al centrodestra, 113 al centrosinistra e 54 al Movimento 5 Stelle. Come si fa a trovare una maggioranza? Non, sto dicendo questo, sto dicendo confrontiamoci sulle idee, ad esempio su una nuova legge anticorruzione che consideri quei 5-6 reati che sono sfuggiti al PDL, oppure confrontiamoci finalmente su una legge sul conflitto di interessi. Se l'avessimo avuta 20 anni fa probabilmente la storia d'Italia sarebbe stata diversa. Però mi faccia dire solo una cosa, io sono consapevole della mancanza di una chiara maggioranza, certo al Senato, perché al Senato, ma per un pelo anche, per un pelo anche alla Camera. Però, ma chi l'ha fatta questa legge elettorale? Che sembra fatta apposta per creare instabilità. E non l'hanno neanche cambiata, l'ultimo anno avevano disponibilità per farlo e non l'hanno fatto. E non è stata mai modificata. Però se si va a rivotare con la stessa legge elettorale succede la stessa cosa. Assolutamente sì, è necessario cambiarla, è previsto anche nel nostro programma, è necessario avere un'elezione, dire una scelta dei parlamentari alla Camera e al Senato. Io credo che, attenzione, non sia stata fatta, non sia stata modificata perché non conveniva, quindi per una valutazione è di chiaro, opportunità. È chiaro. Ce n'era stato il tempo, addirittura il Presidente della Repubblica aveva posto come un elemento prioritario da porre nell'agenda politica. Mm. E non è stato fatto. Non è certo responsabilità del Movimento 5 Stelle. Questo no. Allora Enrico Cappelletti, nel salutarla e nel ringraziarla, ovviamente inizia l'avventura di Roma, mi dica in aggettivo con che spirito, cioè lei un pochino di timore personale anche non ce l'ha, perché insomma, ripeto, la responsabilità ora è grossa, oppure siete entusiasti semplicemente di questa nuova avventura? Beh, c'è un grande entusiasmo, ieri sera c'è stata una grande festa, anche se chiaramente siamo consapevoli della situazione molto delicata, quindi un entusiasmo unito anche ad un grande senso di responsabilità, ma il senso di responsabilità al di là delle conseguenti, insomma, della situazione di instabilità attuale che è in stragrande maggioranza attribuibile alla legge elettorale, sì. Deriva dalla consapevolezza che rispetto al Movimento 5 Stelle ci sono altissime aspettative. Però siamo qui per farcene carico. Questo senza dubbio. Vediamo l'ora di avere l'opportunità di farlo. Intanto la ringrazio anche per essere stato con noi in un'ora abbastanza improbabile. Immagino che ieri abbiate fatto un po' tardi. Grazie, sì. In bocca al lupo, ovviamente. Enrico Cappelletti, eletto, neoeletto del Movimento 5 Stelle alla Camera in Veneto. Voglio salutare Vincino, buongiorno. Buongiorno, ciao Cappellacci, buongiorno a tutti. Cappelletti, che casino Vincino. Ma sono felice, ci sono 150 disoccupati che hanno trovato il lavoro, madonna mia, una gioia pazzesca. Cioè chi sono, quelli del Movimento 5 Stelle? Sì, assolutamente sì. Ma perché? Come disoccupati? Alcuni sono avvocati. La maggioranza era praticamente senza alterne parte più o meno. No. Gente che aveva preso 10 voti, 15 voti. Ma no, quello che abbiamo appena salutato Cappelletti è un imprenditore, lavora con la fabbrica che sta chiudendo, va bene. Sono tutti quegli imprenditori veneti, sono tutti in crisi, perché votavano 5 Stelle, ma no, assolutamente è una giornata grandiosa per la democrazia italiana. Cosa da dire è che sì. Se ci fosse stato Renzi sarebbe andato tutto diversamente. Eccolo lì Renzi. Vincino era uno di quelli che diceva che in realtà ha vinto Renzi le primarie, e oggi avrebbe stravinto alla Camera e al Senato, e per cui Bersani al posto suo, se fosse uno là di quelli là che smacchiano i giaguari, si dovrebbe dimettere, anzi dire va bene, presentiamo Renzi come capo di governo, lo voterebbero tutti. Cioè adesso dice mettiamo Renzi, potrebbe farlo andare da Napolitano e dire il nostro candidato premier è Matteo Renzi. Perfetto, Berlusconi ci sarebbe, una parte dei grillini sì, appena stacchiamo il telefonino a Grillo e a Casaleggio, Casagrande, la come si chiamano, e via, questi sono indipendenti e comunque senza il telefono di Grillo e di Casaleggio, per cui voterebbero pure loro. Sì, comunque, giovane fatto da Renzi. Vincino, sono le 6:44, c'è già Mario Adinolfi alle 6:05, mi ha detto Bersani si dovrebbe dimettere. Tu mi dici si dovrebbe dimettere, sono già i due che si devono dimettere. Adesso povero Bersani, abbiamo giocato a poker insieme e abbiamo vinto. Con Adinolfi? giocate a poker insieme, capito? Questa è la situazione. Vabbè, ma oggi vedo le vignette di Vincino. Allora, intanto c'è un Berlusconi che si deve ubriacare a questo punto. No, esatto, perché c'era un momento che stava arrivando che quello andava sotto il 10, no? Per cui si ubriacava alla grande, ha cominciato a bere e poi si è fermato. Infatti, in attesa del contesto. Perché Fini è fuori, ma Casini diventerà senatore, quindi... questo è un guaio, non è... però della vedova è pure lui fuori, eh? Della vedova, ma chi se ne frega di Pietro? Ingroia sequestrerà due scranni, cosa fa? Ingroia che ci voleva rubare a tutti, appena uno aveva un minimo indizio di una corruzione, via, sequestrava fabbriche, industrie, tutto, via, niente, neanche Ingroia, di Pietro non c'è più. Ci rimane la Regione Lazio, Rotolo. Ruotolo, beh no, ma Ruotolo non so, sì, verrà forse eletto in consiglio regionale, forse. Già sono terrorizzati a Santone, dovessi riprendere il Ruotolo. Chi lo sa. Intanto facciamo così, Vincino, sentiamo le informazioni sul traffico, perché poi quando rientriamo, in realtà voglio capire, insomma, che succede adesso di questo paese che sembra ingovernabile al Senato. Dobbiamo votare. Adinolfi ci ha detto no, devono mettersi insieme PD e PDL, fare un governo, non chiamiamolo di responsabilità perché ha detto sono degli irresponsabili, un governo di larghe intese, fare in questo anno e mezzo quello che serve, primo fra tutti la nuova legge elettorale, e tra un anno e mezzo andare a votare in contemporanea con le europee. Potrebbe essere uno scenario, oppure un altro scenario è quello che si vada a votare subito, però sempre con questa legge elettorale succede lo stesso casino. Insomma, qualcosa per uscire da questa impasse bisognerà fare. 24 mattino. Alle 6:48 minuti continua la nostra diretta, siamo con Vincino. Vincino, ti voglio far ascoltare una cosa. Ma hai sentito parlare Beppe Grillo? L'abbiamo già fatto sentire prima in inglese, perché sono andati dalla CNBC a fargli un'intervista. A un certo punto gli hanno chiesto di spiegare qualcosa del Movimento 5 Stelle, di cos'è il movimento in inglese, ce lo dica per i nostri telespettatori. Senti, It's a movement of civility, of in the future. It's a dream, it's a utopic realist, okay? It's an epidemic. You want to see that, you must see this movement like a virus, you understand? Virus. It expanded in all Italy, in all Europe. Vincino, non male, no? Virus. Virus, una malattia gravissima. No, vabbè, ma per carità, come si diceva prima, non l'hanno eletto per l'inglese, però bella, insomma, c'è anche questo aspetto di colore. Allora ti faccio sentire anche Berlusconi che ha detto a un certo punto fuori dal seggio: I want mass Europe, not less. Mass. Senti, l'inglese. The first European. Thank you. Really, I want Mass Europe, not less. Vabbè. Che dobbiamo fare, Vincino? Qua in qualche modo dobbiamo uscire da questa situazione. Siamo qua per ora su Italo, che è arrabbiatissimo. Ah, guarda. Su Italo, è in treno. È incazzatissimo, cioè proprio... E che dice la gente? Che dice la gente? No, c'è Montezemolo che gira per i vagoni, arrabbiatissimo. E che cavolo, non doveva andare così, che porca miseria, tutti i soldi che ho speso e qua e di là. Avanti e indietro, prima classe e seconda classe. Prima classe, seconda classe, assolutamente. Ha messo pure la terza classe, guarda, e mi ci ha messo là. Tu non ti muovi dalla terza classe. Vincino, sei Vincino in coda, terza classe. Ma la gente legge i giornali, che dice? Si guardano tutti straniti, dicono no, gente, dove andiamo? Guarda, i tassisti erano qui contenti, devo dire. Perché? No, ma devo dire che, vabbè, i tassisti a Roma sono la schifezza della schifezza, per cui quelli... No, quelli ci ascoltano, sono un casino. Non potrai più prendere un taxi a Roma, sei matto, Vincino. Io speravo che questo fosse chiuso, non è chiuso. Che c'è? Niente, che qua è la trasmissione. È che io sono in mezzo tra i vagoni, ora me ne vado in bagno e adesso. Ci sono quelli arrabbiati, sono i bersaniani proprio. Sì. E questi qua poi dico, quelli Montezemolo pure lui ha buttato alla cosa, ha detto vado in bagno, ecco. Ma senti, ma sta storia del giaguaro da smacchiare adesso come finirà? Quello è macchiatissimo, felice, guarda, si umetta tutte le macchiette, contento, guarda, è una cosa. Abbiamo dato altri 10 anni di vita a quel povero vecchio. Altri 10 anni di vita. Non doveva dirle queste qua, lui e Gotorro con questi proverbi qua della bassa emiliana, insomma era una cosa che... ce la potevano infatti là andava Renzi, diceva i proverbi, quella Renzi ancora Renzi, ma non c'è Renzi, non è che possiamo sempre guardare per... tra una settimana, 10 giorni arriva Renzi, stiamo aspettando, io arrivo gli altri, aspettiamo Renzi. E invece Monti che ieri si è presentato ha detto è stato soddisfacente il risultato. Ma come soddisfacente? C'era soddisfacente, ha detto Vincino. Piangeva poverino, guarda la sua età, gli hanno fatto questa cosa. Poi c'era quell'americano là, un sacco di soldi dato a quell'imbecille, gli ha fatto tenere il cane in braccio, gli ha fatto bere la birra, tutte queste stupidaggini qua. Il guru di Obama, Il guru, 150 milioni di euro il guru, mamma mia. Non ce l'ha fatta. La battuta migliore ieri l'ho sentita da Roberto D'Agostino. Ha detto: ma che dove vuoi andare Monti? C'ha una bocca fessura che sembra un posto dove inserire il bancomat. Montezemolo ha tagliato la linea. Ecco, perfetto. Vabbè, dai. Allora lasciamolo su Italo. Ti lasciamo su Italo, Vincino. Ritorniamo per un attimo pseudo seri. Voglio salutare Gino dalla provincia di Lucca che ci ha chiamato 800 24 00 24. Gino, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ci ha capito qualcosa di queste elezioni, come sono andate? Ma io, guardi, sono 32 anni che lavoro in Argentina, come ho detto alla sua gentilissima segretaria, insomma. E ero venuto in Italia perché fra un anno dovrei andare in pensione. Segretaria, la nostra, non so, Micol forse ha chiamato al centralino, o Miriam Luchetti, non ho segretaria. Dica, Gino. Va bene, comunque, vabbè... E niente, ho detto, io ho 32 anni che sono là e ho avuto dei problemi, come sapete bene l'Argentina si stava riprendendo, ora sta riandando com'è, però io purtroppo sono venuto per votare per le feste pasquali come tutti gli anni. Comunque non mi dispiace per questi nostri politici, ma non ritorno là anche se purtroppo il cuore rimane italiano. Ma che ha votato lei, lo vuol dire? Io glielo dico chiaro e tondo, ho sempre votato per la destra, cioè il Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, mi sono vergognato. Però non c'era, adesso chi ha votato? Non c'era. Io ho votato i Fratelli d'Italia. Ho votato per i Fratelli d'Italia perché mi sembrava che questa gioventù, il gigante e la bambina mi sembravano... Crosetto e Meloni. Va bene Gino, la ringrazio, andiamo da Alberto da Bordighera, altrimenti lo lascio lì, non riusciamo prima delle 7. Alberto, sia sintetico però, per cortesia. Pronto. Dica. Pronto. Bordighera. Sì. Io non sento parlare, Bersani non si deve dimettere, deve dare qualcosa a Grillo. Ad esempio, Dario Fo, Presidente della Repubblica. Dario Fo, Presidente della Repubblica. Una Camera Grillo, il problema sarebbe la Vindi, che non voglia il Senato. Vabbè, lei dice Dario Fo, Presidente della Repubblica, ragazzi. Io, va bene, sono 6.54, però volete mettere i discorsi di fine anno? Beh, uno spettacolo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, cari ascoltatori, cari italiani, sono le 7.32 minuti, oggi il giornale radio delle 7 era più lungo, come vi ho detto, e noi siamo in diretta fin dalle 6, e continueremo, questo è il momento tradizionale della rassegna stampa, e dunque io qua davanti tutti i giornali per cercare di capire come trattano questa vicenda delle elezioni che hanno dato un risultato certo, l'ingovernabilità, almeno al Senato, almeno con le tradizionali forme. Nel senso che al Senato non c'è chi ha vinto, chi è in grado di formare una maggioranza in grado di reggere su se stesse. Allora che succederà? Beh, intanto dai titoli dei giornali c'è molta incertezza. Il Sole 24 Ore, Senato senza maggioranza, tensione sui mercati. Per il Corriere della Sera, voto shock, non c'è maggioranza, Repubblica, boom di Grillo, Italia ingovernabile. Tra l'altro, prima ho letto il Corriere, vi ricordo, avremo il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, alle 8.30, nostro ospite, così come vi ricordo avremo il senatore Pietro Ichino, oggi con Monti, alle 8.15, e anche Miguel Gotor del Partito Democratico, sempre alle 8.30, ecco perché mi ero dimenticato gli ospiti più tardi. I titoli ancora: Il Fatto Quotidiano, Grillo boom, batte tutti e li spinge alla mucchiata. Il Giornale, miracolo Berlusconi. L'Unità, la Camera al centro-sinistra, Senato paralisi, Grillo trionfa. Il Manifesto, scacco matto, e c'è la foto di un Berlusconi sorridente. Uno scontento stellare, questo è il titolo di Avvenire. Un'Italia ingovernabile per il secolo XIX, mentre Il Messaggero ha vinto l'ingovernabilità, e La Stampa, Grillo boom, Parlamento bloccato. Cosa succede? Cari ascoltatori, succede appunto questo nell'analisi che vi segnalo di Roberto Dalimonte in prima pagina del Sole 24 Ore per il PD, debacle al Sud. Questa volta, scrive Dalimonte, la lotteria del Senato non ha prodotto un vincente. Ci eravamo già andati vicini nel 2006, ma alla fine con molta fortuna Prodi era riuscito ad avere una maggioranza in entrambe le Camere. Questa volta non è andata così. Al Senato erano possibili tre esiti, si è verificato il più improbabile e il peggiore per il Paese. La coalizione di Bersani, la lista civica di Monti non fanno maggioranza in questo ramo del Parlamento, come era dato invece praticamente certo nei pronostici della vigilia. Dovranno ricorrere al sostegno di Grillo o di Berlusconi. Nemmeno con una coalizione di destra fortemente indebolita questa sinistra è riuscita a vincere. Bersani e Vendola hanno ottenuto un risultato inferiore a quello di Veltroni e di Pietro nel 2008, sia a livello nazionale che in tutte le regioni. Alla Camera il vincitore sembra essere il PD, ma sarà solo grazie al sistema elettorale. Con un sistema di voto proporzionale non ci sarebbe stato nemmeno in questo ramo del Parlamento. Il problema è che si vince con una percentuale di voti inferiore al 30%, mai nella storia della Repubblica era successa una cosa simile. Questo è l'inizio dell'analisi di Roberto Dalimonte, poi le analisi ovviamente seguiranno nei prossimi giorni. Il dato di fatto è questo, che al Senato appunto non c'è una maggioranza, perché dei seggi attribuiti al momento, diciamo che 100 ne ha qualcuno di più il centrodestra, perché 113 sono attribuiti al centrosinistra, 116 al centrodestra e 54 al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, e poi 18 alla coalizione di Mario Monti. In questa situazione come fare a comporre una maggioranza al Senato, mentre invece alla Camera per il premio di maggioranza, anche se ha vinto di poco il centrosinistra in termini di voti, è scattato questo premio di maggioranza, quindi il 55% dei deputati va appunto alla coalizione guidata da Pierluigi Bersani. Bersani che non ha parlato ieri, solo ricorda l'Unità alle 23.55, ha rotto il silenzio con questo comunicato: il centrosinistra ha vinto alla Camera e per numero di voti anche al Senato. È evidente a tutti che si apre una situazione delicatissima per il Paese, gestiremo la responsabilità che queste elezioni ci hanno dato nell'interesse dell'Italia. E questo infatti è il titolo dell'Unità: gestiremo il risultato nell'interesse dell'Italia. È chiaro che tutto è in mano ora a Giorgio Napolitano, al Quirinale. E che succede al Quirinale? Tutti i quotidiani, tutti i quirinalisti fanno sapere che c'è il massimo, il più assoluto riserbo. Questo è il titolo, o è meglio l'inizio dell'articolo di Lina Palmerini. A pagina 12 del Sole 24 Ore, il Colle teme per Unione Europea ed Economia, scrive Palmerini, il più assoluto riserbo, dal Quirinale non trapela nulla. Giorgio Napolitano segue l'evoluzione dei dati, ma la provvisorietà dei numeri, la situazione che emerge, costringe al silenzio e alle riflessioni. E ecco allora che bisogna affidarsi ai retroscena. Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, sotto il titolo Incarico, il rebus di Napolitano, la linea tenersi le mani libere, a pagina 5, tra le ipotesi spunta quella di dare vita a un governo di scopo, cioè quello, un governo per fare alcune cose, prima fra tutti, indovinate, la riforma elettorale. L'avranno capito che questa legge elettorale è davvero, ora si può dire a urlarlo ai 420, aprite la finestra e urlatelo nelle vostre città, una porcata immonda, lo si può dire? Nel 2006 era andata bene, nel senso che si era riusciti bene per chi ha vinto, ma si era riusciti di poco a dare un senso di governabilità. Adesso questo è l'emblema chiaro di quanto sia una porcata una legge del genere. E allora un governo di scopo per fare il cambiamento della riforma elettorale e poi magari andare a rivotare. In realtà sul nuovo voto, che è una delle possibilità su cui si stanno interrogando anche gli italiani, dovremmo andare a rivotare nel giro di poco tempo, scrive in un retroscena di Repubblica Francesco Bei, Umberto Rosso, a pagina 7, cercando di interpretare il ruolo di Napolitano, Sul palazzo l'incubo di nuove elezioni, ma Napolitano la priorità è avere un governo. Il PD, scrive Repubblica, al momento è sotto shock. A caldo Enrico Letta e Stefano Fassina hanno evocato apertamente il ritorno alle urne, ma dal Quirinale la tentazione viene immediatamente bloccata. L'obiettivo, secondo Repubblica, del Quirinale è una missione tutt'altro che facile, ma è quella di verificare se in Parlamento una maggioranza potrà comunque vedere la luce e provare a capire in tutti i modi se accordi e intese tra partiti riusciranno a consentire di affidare l'incarico di Presidente del Consiglio. Per il Colle la strada non può che essere che questa, e quindi non è piaciuta affatto quella corsa a ipotizzare immediatamente nuove elezioni anticipate, magari solo al Senato, che si è scatenata dalle parti del PD, perché c'è anche questa ipotesi, cioè di ricorrere a nuove elezioni solo per il Senato. Sempre per il retroscena, Maria Teresa Meli, a pagina 17 del Corriere della Sera, il leader del PD Bersani proporrà di guidare un governo di responsabilità, una sorta di apertura a chi ci vuole stare. E questa è una delle cose che si profila, l'idea di un governissimo. Oggi Silvio Berlusconi parlerà per la prima volta su Canale 5 e pare, secondo alcuni, che potrebbe chiedere questo, cioè proporre un governissimo. Scrive così Repubblica: il Cavaliere prepara la mossa, governissimo e salva condotto. Carmelo Lo Papa, pagina 13. Vuoi vedere che adesso mi tocca fare il presidente del Senato? È incredulo, ancor più che soddisfatto, per l'isperato boom un Silvio Berlusconi che dice: non abbiamo alternative, non si può tornare alle urne. Non subito ci aspetta un governo di larghe intese col PD per le riforme, quelle elettorali soprattutto, per eleggere il capo dello Stato, e poi vedremo. Così ha preannunciato a coloro che gli hanno fatto visita. Dunque, andiamo a un governo B&B, Bed and Breakfast, così l'ho rubata su Twitter da qualcuno, ma era talmente bella, Bersani e Berlusconi, Bed and Breakfast. Beh certo, chi ha già escluso Inciucini è Grillo, che è sicuramente dal suo punto di vista uno dei veri vincitori di questa campagna elettorale. È il primo partito alla Camera, circa il 25%, il primo partito alla Camera, come coalizione no, andando da soli, però è il primo partito votato in Italia. Testa a testa con il PD, non faremo inciuci. Ieri Grillo ancora ha detto: tra 6-7 mesi Berlusconi e Bersani, che sono due falliti, se ne andranno a casa. Cioè, ha ribadito ieri, queste sono le prove generali, in qualche modo, le prove generali per quelle che saranno elezioni tra un 6 mesi. Un Beppe Grillo che certo ora si gode il trionfo, sono 107 i deputati, 108 credo i deputati eletti dal Movimento 5 Stelle e 54 senatori, questi ovviamente i numeri non sono ancora definitivi, quindi davvero un trionfo. C'è anche Dario Fo che viene intervistato da Repubblica, pagina 3, e dice: certo, io lo conosco bene, saprà fare buon uso dei suoi voti, da anni lo conosco, porterà al potere tanti giovani preparati che sapranno rinnovare l'Italia. Uno di questi è già stato nostro ospite alle 6.30, Enrico Cappelletti, che è stato eletto in Veneto. Io li ho conosciuti da vicino, non ho dato il mio voto senza informarmi, e parlando con Grillo dei suoi programmi ho capito che solo loro possono garantire una vera rivoluzione. Questa è l'intervista di Zita Dazzi a Dario Fo, che tra l'altro, ricordiamo, è indicato come possibile Presidente della Repubblica dalla legge al Quirinale da parte del Movimento 5 Stelle, per l'appunto. C'è anche un'interessante retroscena, o meglio un articolo di Marco Imarisio, che ha seguito Grillo il giorno del voto. Grillo e ora scappellotti a tutti, la passeggiata verso il seggio, il pisolino pomeridiano, poi il videomessaggio a sera. Tranquilli, tra 6 mesi si rivota. Eccola qui l'idea di Beppe Grillo. Quelle di oggi erano prove generali. E poi che dire? Beh, ci sono già i commenti, le interviste. A proposito di governissimo, Stefano Fassina ancora sull'unità dice subito no. Intervistato da Roberto Rossi a pagina 5, alla domanda precisa: possibile una grande coalizione? Risponde Fassina: con questa destra è una soluzione impraticabile. Si torna alle urne? Non so, aspettiamo, ma è complicato immaginare una prospettiva di breve periodo. Serve una riforma della legge elettorale, poi si può tornare a votare. Qui, cari ascoltatori, io vi ricordo che ho tenuto, ricordate che sul mio profilo Twitter Alino Milan ironizzava anche un po' sulle 56esima, 57esima, 98esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ecco, siamo a questo punto, che chiedono, ci vuole una riforma elettorale. Massimo Cacciari, intervistato da Alessandro Ferrucci sul Fatto Quotidiano, a pagina 5, si sfoga così: il Partito Democratico sono delle teste di cazzo, era meglio Renzi. Partiamo dai motivi, sono gli stessi da 20 anni, da quando perdiamo. È un Cacciari che dovete immaginarlo urlare al telefono, così almeno racconta il cronista del Fatto Quotidiano. Come al solito siamo gente affetta da snobismo, da puzza al naso, come sempre. Al nord è una catastrofe, sia per PDL che per Lega. Il centro-sinistra non ha fatto un cazzo, non è cresciuto. Di più, peggio, sono delle teste di cazzo. E qui scrive il cronista, il tono della voce cresce ancora notevolmente. Loro sanno tutto, capiscono tutto, possono insegnare tutto a tutti, mentre gli altri sono dei cretini. Colpa di Bersani? No. Ma di quel gruppo dirigente che continua a circondarlo, gente completamente fallita, tutti quelli che stanno da sempre lì e che non abbiamo ancora cacciato. Abbiamo sbagliato a non appoggiare Matteo Renzi, è stato un grande errore. Ora l'unica strategia è mantenere i nervi saldi, cerchiamo di dialogare in Parlamento con gli eletti nelle liste di Grillo, se ci riusciamo. Così Massimo Cacciari. C'è da dire che Goffredo De Marchis invece su Repubblica racconta la solitudine amara del segretario Bersani, che dice: non siamo stati all'altezza della crisi. Sono alcune parole dette soprattutto al suo caro amico di una vita, Migliavacca, deputato come lui, che gli è stato vicino in ogni momento. Dice Bersani, racconta Repubblica in questo retroscena, un esito davvero inaspettato. Un tempo erano gli elettori della DC o del PDL a nascondere il proprio voto. Stavolta si sono vergognati di confessare i nostri che votavano Grillo. Ecco qui la missione di Bersani, questo almeno un virgolettato attribuito alla Repubblica. Come dire, il 5% che dovevamo recuperare ce lo ha preso lui e lo hanno preso da noi. E i nostri si sono vergognati di dirci che avrebbero votato Beppe Grillo. Berlusconi invece gongola, la Lega un po' meno. Monti, che dice risultato accettabile, viene un po' invece stroncato, mentre spariscono in groia Di Pietro, Fini e un po' anche Casini, che però sarà eletto al Senato. C'è un ascoltatore che mi chiede via SMS: Favia è stato eletto, quello espulso dal Movimento 5 Stelle? No, non è stato eletto. Tra l'altro c'è un trafiletto sul Corriere della Sera che dice: mi dimetto anche da consigliere regionale, come avevo promesso, dopo che ho finito gli ultimi lavori che le ho portate a termine. Non è stato eletto, visto che non è entrato in Parlamento nessuno di Rivoluzione Civile del Movimento di Antonio Ingroia, per cui lui era candidato. Allora, Silvio Berlusconi, come detto, gongola. Pare che tra un'ora interverrà per la prima volta pubblicamente su Canale 5. Vediamo se offrirà questa idea di un governissimo di larghe intese. Sul Giornale, altro che morto, i morti sono loro. Sono sempre parole, come dire, attribuite e virgolettate, non sono pubbliche, dichiarazioni pubbliche, ma dichiarazioni che ha detto a chi è andato a trovarlo. Trionfa il giornale anche con questo titolo di prima pagina, che mi sono perso. Eccolo qua, miracolo Berlusconi, il centrodestra ferma la sinistra. Berlusconi, anche per il Corriere della Sera, frena gli entusiasti, visto siamo ancora vivi. Senza di noi non vanno da nessuna parte, da qui devono passare. Il malumore per aver iniziato la mia campagna elettorale, in 2 mesi ho raddoppiato i voti del partito, c'era gente che diceva che non dovevo scendere in campo. Se mi avessero dato retta oggi avremmo vinto dappertutto. E poi una stilettata alla Lega, facevano i sostenuti ed eccoli qua, bel risultato, complimenti. Se non erano per me erano spariti, spazzati via, e si permettevano di prendere le distanze anche in Lombardia. Se la regione sarà nostra, il merito sarà solo del PDL, ma adesso la musica cambia. Insomma, Silvio Berlusconi per nulla, racconta il Corriere, l'unico problema è personale, dice, una leggera tachicardia, un piccolo malessere anche per motivi di preoccupazione familiare, perché sono in crisi anche Pier Silvio e Silvia Toffanin, così racconta il Corriere della Sera nell'articolo principale di politica riguardante Silvio Berlusconi. E quindi questa rottura, diciamo, del legame tra Pier Silvio, tra il figlio, e Silvia Toffanin è l'unico motivo di vero dispiacere. Per il resto, come dire, e Monti sì, è entrato al Senato, cioè lui è senatore a vita, è entrato al Senato alcuni dei montiani. ma raccontano soprattutto Aldo Cazzullo sul Corriere, il Loden, il cane, l'ombra della Merkel, incompresa l'idea del professore, è stato considerato il candidato del sistema, noi avremo Pietro Ichino a parlarne, e invece la sconfitta di Ingroia e di Pietro, due magistrati, Di Pietro dopo tanti anni in politica, Ingroia la prima esperienza in politica, accusa Bersani, è colpa sua, non ci ha coinvolto, ma insomma sparisce Fini, sarà invece eletto al Senato Casini. In questa situazione di, e invece, scusate il bisticcio di parole, casino vero e proprio, bisogna capire che succederà. Regalo solo tre vignette, perché anche attraverso le vignette si possono raccontare le elezioni. Il Fatto Quotidiano, c'è un Giorgio Napolitano dentro la gabbietta dove sta il canarino Titti. 5 Stelle, mi è sembrato di sentire un boom, così dice Giorgio Napolitano nella vignetta di Vauro. Mentre in prima pagina di L'Unità, Staino, c'è Bobo che dice: per Montanelli i sogni finivano all'alba, e la figlia, per il PD non ci sono problemi di orario. E infine Giannelli in prima pagina del Corriere della Sera, c'è un giaguaro la cui faccia è quella di Silvio Berlusconi che addenta Bersani nel culo, è così, con i denti aguzzi, il giaguaro addenta Bersani. In questi due minuti ci sono anche altre notizie ovviamente sui giornali, il Vaticano soprattutto, vi segnalo VatiLeaks si affaccia in conclave, un bell'articolo di Carlo Marroni, ci si avvicina al conclave. Che cosa succede? Che il Papa ha deciso di rendere noto ai cardinali le informazioni su che cosa? Sugli scandali che ci sarebbero in un rapporto a firma Julian Herranz, Salvatore Giorgi e Joseph Tomko, tre cardinali che hanno consegnato il 17 dicembre scorso al pontefice un dossier in cui sarebbero contenuti i segreti di VatiLeaks. Il Papa ha detto i cardinali devono essere informati sul contenuto, ovviamente non bisogna rendere pubblico nulla, anzi chi viola il segreto, qualsiasi tipo di segreto, avrà una scomunica automatica. Questo è stato deciso in un motu proprio, cioè un documento da parte del Papa ieri per avvicinarsi al conclave. Tra l'altro la notizia è che a questo conclave non parteciperà il cardinale scozzese O'Brien. Era quello che è stato accusato da 4 sacerdoti di comportamenti impropri, ovviamente tra virgolette potete immaginare che cosa voglia dire comportamenti impropri, ebbene è stato allontanato dal conclave, non sarà il conclave, si dimette il cardinale, chiedo scusa a chi ho offeso, quindi evidentemente seppure storie e vicende vecchie di 30 anni fa erano vicende che avevano una loro concretezza. E quindi Keith O'Brien, 74 anni, non sarà al conclave. Tutti si concentravano sul cardinale Mahoney, quello di Los Angeles, e invece la notizia è che non ci sarà il cardinale O'Brien. Vi segnalo solo in chiusura uno straordinario racconto di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, pagina 45, che segue passo passo la giornata di Diego Armando Maradona a Napoli. Io non ci credevo sarebbe arrivato, invece è arrivato, la Guardia di Finanza lo ha fatto passare, tutto a posto. Maradona a Napoli come Masaniello e la Finanza lo scorta! Ebbene sì, la Finanza, quella qui dovrebbe, secondo alcuni, 40 milioni di euro per l'Agenzia delle Entrate, ha scortato Diego Armando Maradona. Che paese straordinario! "24 Mattino, l'Italia si desta". Le 8:18 minuti, eccoci cari ascoltatori, cari italiani, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il giorno dopo le elezioni, in una situazione come certificano un po' tutti i giornali di ingovernabilità, almeno questo al Senato, che si può dire? Il centrosinistra ha vinto di poco la Camera e ha ottenuto il premio di maggioranza, mentre al Senato la situazione è ben più complicata. Ne vogliamo parlare con il primo dei nostri ospiti, lo ringrazio e lo saluto, è il senatore, si può dire perché è rieletto, Pietro Ichino. Buongiorno, buongiorno. Senatore. Lei, Scelta Civica con Monti, fa parte dei 18 senatori che al momento sono attribuiti a Monti. Sono 119 del centrosinistra, perché sono stati attribuiti quelli del Trentino, 117 del centrodestra, 54 Movimento 5 Stelle, 18 appunto Monti. Senta, Monti ha parlato di situazione accettabile, di comunque di una, cioè di una soddisfacente, ecco questo. Lei condivide il risultato di l'aggettivo soddisfacente per Monti dice questo con una ragione, cioè che questa formazione che si è creata intorno a lui è nata meno di 50 giorni fa, senza una lira, senza una struttura organizzativa, e ha raccolto 3 milioni e 200 mila voti. Quindi questo diciamo può consolare rispetto però a un obiettivo che era più ambizioso, e credo che sarebbe sbagliato non riconoscerlo. L'obiettivo era sicuramente più elevato, soprattutto più ampio sul piano nazionale, nel senso che qui si è assistito a un successo della lista Monti particolarmente rilevante in Lombardia, a Milano in particolare. A Milano città Monti ha avuto il 24% dei voti. Sì. E però invece La sua presenza a Milano è anche un po' più radicata, ecco. Sì, ma invece viceversa le liste con Monti per l'Italia non hanno superato il quorum nel sud del paese, e questo un po', perlomeno in numerose regioni del sud, e questo certamente non è un fatto positivo. A questo proposito, senatore Ichino, unirsi a Fini e Casini, certo col senno di poi si possono fare tante considerazioni, ma è stato un disastro almeno dal punto di vista elettorale. Guardi, le cause di questo risultato verranno analizzate, sono complesse. Io non so se può essere quella la chiave di lettura o non piuttosto altre. In molti, tra questi anche io, ritenevamo che sarebbe stato meglio presentarsi come una forza più radicalmente nuova, e quindi facendo diciamo il salto di chiedere uno scioglimento, sì, delle due vecchie formazioni di UDC e FLI. È anche vero che questa formazione nuova, tra l'altro presa in contropiede dall'anticipazione delle elezioni, che non era prevista, quei tre mesi di anticipo determinati dal ritiro della fiducia al governo Monti da parte di Berlusconi, che ha aggravato il problema indubbiamente, e probabilmente non avrebbe avuto il minimo di strumenti organizzativi addirittura per presentare le firme, sì, senza quindi, quindi diciamo c'è stato anche un condizionamento di per l'accelerazione, è chiaro, di per carattere organizzativo. Dopodiché naturalmente il discorso è più complesso. Sì, è chiaro. Avevo espresso un parere diciamo il parere personale era di andare parere, da solo. Senta, senatore, le chiedo questo. Ora, notizia di poco fa, lo spread ha superato quota 300 punti, il differenziale BTP e Bund si è allargato di 7 punti, è arrivato a quota 300. Le chiedo, c'è ingovernabilità al Senato, almeno a vedere questi numeri, a meno che non si faccia questo governissimo PD e PDL? Ma guardi, in realtà di soluzioni per dare un governo al Paese ce ne sono diverse. E noi ci siamo dimenticati il fatto che siamo pur sempre una repubblica parlamentare, cioè una repubblica nella quale i governi si fanno in Parlamento, buona o cattiva che sia questa scelta, questo assetto costituzionale. Però ora, che altre diverse soluzioni ci sono? Le soluzioni in realtà ci sono, e credo che sarebbe una follia non perseguirle, follia sia dal punto di vista economico istituzionale. L'Italia mi sembra non può permettersi il lusso di un semestre di paralisi. Quindi rivotare è una follia. Ma soprattutto rivotare non darebbe alcuna garanzia di trovare un assetto che consenta una più facile formazione del governo. Non dimentichiamo che l'esito di questo voto in Italia è molto simile a quello del primo voto e del primo turno di voto in Francia, quando vedemmo le due forze politiche principali molto indebolite e le due ali antisistema molto rafforzate. Ma quindi lei cosa propone? Per esempio, no, in Francia avevano hanno lo strumento che è il doppio turno, il ballottaggio, che ha consentito di mettere riparo al frazionamento e di dare un governo solido, stabile al paese, nonostante le tendenze che si sono espresse lì come da noi. A noi manca questo strumento istituzionale. Appunto, cosa si può fare? Qualcuno propone si rivoti solo al Senato, per esempio. Ma rivotare solo al Senato non garantisce affatto che al Senato il Senato si allinei al risultato della Camera. Anzi, molto probabilmente un secondo voto porterebbe a ulteriori divaricazioni. Noi dobbiamo innanzitutto capire che il risultato di questo voto è il risultato della sfiducia generata dalla inconcludenza della politica italiana nell'ultima legislatura e in particolare nell'ultimo anno, quell'anno in cui, mentre il governo doveva occuparsi dell'economia nazionale, le forze politiche avrebbero dovuto occuparsi delle riforme istituzionali, in particolare la riforma elettorale, la riduzione del numero dei parlamentari e la riduzione delle province. Ora, queste tre cose potrebbero benissimo essere messe all'ordine del giorno immediatamente e le stesse forze politiche. Sì, ma con quale governo, senatore? Cioè, io ripeto ancora, non ho capito la soluzione numerica che potrebbe esserci al Senato. Io credo che su queste tre questioni, diciamo un programma centrato su questi tre punti potrebbe essere programma aperto a una larga intesa di forze politiche, aperte anche a Grillo, perché su tutte queste tre un governissimo tre punti, con tutti questi tre punti anche Grillo è d'accordo, e quindi almeno su questo si può pensare a un esecutivo che possiamo chiamarlo di unità nazionale, di salvezza nazionale, comunque un esecutivo che consenta all'Italia di fare rapidamente quello che non ha fatto nell'ultimo anno. E poi si rivota. Dopodiché possono accadere diverse cose. Può accadere che si debba andare a votare e allora ci si va fra un anno avendo una riforma istituzionale, avendo una probabilmente anche una legge elettorale meno assurda di questa attuale. Non dimentichiamo che questo risultato elettorale, che vede alla Camera assegnare il 55% dei seggi a una forza politica che ha raccolto il 30% dei voti, ma al Senato invece è una porcata, diciamo. Una legge che è stata studiata a tavolino per impedire la governabilità. Senatore, al Senato era l'obiettivo del centrodestra nel 2005, nel 2006 c'è stata una vittoria di poco, risicata stavolta no. Senatore Chino, scusi, le devo fare una domanda che deve andare in pubblicità. Lei è andato via dal PD per la vicenda Renzi. Il PD paga il fatto di non aver scelto Renzi, secondo lei? Diciamo che questa tornata elettorale dimostra per l'ennesima volta che la strategia della sinistra italiana, del pardon me à gauche, cioè niente avversari a sinistra, e che ha portato Bersani a scegliere come alleato prioritario Vendola invece di allearsi al centro e puntare a conquistare il centro, è una strategia perdente che condanna la sinistra italiana a non superare il 30-32% e quindi a essere sempre minoritaria. Abbiamo avuto l'ennesima riprova di questo dato che peraltro era già conosciuto ai più. Credo che questo determinerà bisognerà un ripensamento profondo anche del centro-sinistra, anche perché vedremo cosa farà adesso Pierluigi Bersani. Io, senatore, la ringrazio intanto per essere stato con noi. Pietro Ichino, come detto, ce l'ha fatta, è stato rieletto al Senato, 18 eletti al Senato nella lista con Monti, ma è chiaro, la situazione è: cari italiani, avete capito come si governerà, come si comporrà la maggioranza al Senato? 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35 minuti. Allora, io credo che la sensazione con cui siano svegliati molti italiani è una sensazione di spaesamento. Oggi titola il Corriere della Sera: voto shock, non c'è maggioranza. Ne saluto il direttore, del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Grazie, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La domanda che si pongono anche molti italiani, direttore, è questa: bisogna andare a rivotare presto o subito? Ma c'è questo rischio effettivamente di andare di nuovo alle urne, però al momento credo che sia un gesto di responsabilità da parte di tutti e probabilmente da parte del partito che per un'incollatura ha vinto la Camera, tentare in qualche modo di dar vita ad un governo che necessariamente sarà un governo di coalizione. Larga coalizione non lo sappiamo, perché l'incognita naturalmente è data dall'atteggiamento del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che va messo alla prova, nel senso che ha vinto le elezioni, insieme a Berlusconi, che ha realizzato una rimonta straordinaria. Oggi naturalmente si trova di fronte anche a delle scelte, a delle responsabilità, deve dare delle risposte. Un'apertura di credito è necessaria, è doverosa e va naturalmente capito il senso anche di questa protesta così larga. Io credo che su alcuni punti ci possa essere una convergenza che potrebbe anche in qualche modo coinvolgere altri partiti e tentare almeno di realizzare alcune riforme però essenziali, come per esempio la riforma della legge elettorale, e poi eventualmente si potrà andare al voto. Questo è uno dei percorsi. È uno dei percorsi, certo. Si parla anche della possibilità del governissimo. Allora, cioè PD-PDL. Direttore De Bortoli, siccome c'è con noi anche Miguel Gotor, che è stato eletto nel Partito Democratico e che saluto, buongiorno Gotor, uno degli uomini buongiorno. Anche più vicini a Pierluigi Bersani. Questa ipotesi del governissimo, cioè al Senato la maggioranza non si compone facilmente. Al momento, con l'assegnazione di alcuni senatori del Trentino, il centro-sinistra è passato in vantaggio, ma insomma si tratta di 119 senatori a 117 per il centrodestra e 54 di Grillo. A questo punto il governissimo con Berlusconi lo fareste, Gotor? Io credo che sia prematuro rispondere a questo. Io credo che la cosa più importante sia avere chiarezza della drammaticità della crisi in cui ci troviamo, che è una crisi economica, politica e istituzionale. Il PD ha una sua proposta, è la proposta che ha portato avanti in questa campagna elettorale, ha conseguito una maggioranza alla Camera assoluta e una maggioranza relativa al Senato. Io credo che questo carichi il Partito Democratico di una responsabilità, rispetto a questa responsabilità non ci sottrarremo né indietreggeremo. Io credo, ascoltavo la parte finale delle dichiarazioni del direttore del Corriere della Sera, De Bortoli, e credo che sia importante individuare una piattaforma di punti, dirimenti intorno ai quali rispondere alla domanda che è oggi principale, che è quella di dare stabilità e governabilità all'Italia, perché gli altri non ci aspettano. Il problema è come è come con questi numeri. Un attimo, direttore De Bortoli, il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo ha già detto si voterà tra 6 mesi, non facciamo inciuci e inciucini. Come dobbiamo interpretarlo? Come la solita dichiarazione, diciamo, verbalmente aggressiva di una persona che poi in realtà chiederà ai suoi di scendere a più miti consigli, oppure no? Devo dire che Grillo è stato coerente in questi mesi, insomma. E quando poi i suoi rappresentanti sono stati eletti per esempio in amministrazioni locali si sono dimostrati anche pragmatici, insomma. Credo che naturalmente l'idea di un governissimo che escluda il Movimento 5 Stelle non finirebbe soltanto per rafforzarlo in un eventuale nuovo ricorso alle urne. Credo che sarebbe più saggio cercare di capire quali sono le possibilità scarsissime di una situazione così difficile, drammatica, incartata. Per esempio, il Movimento 5 Stelle vuole la riforma della politica e la riduzione drastica dei costi della politica e del numero di parlamentari. Dovrebbe essere interesse anche del Partito Democratico proporre per esempio una convergenza su questi temi, che credo che potrebbe in qualche modo interessare anche centrodestra. Alcuni obiettivi limitati credo che sarebbero perseguibili in questa fase. Quindi proporre riforma elettorale, magari riduzione dei costi della politica, cose che anche al Movimento 5 Stelle possono invogliare, diciamo, ad appoggiare per un governo che prima Ichino ce l'ha definito di possibile salvezza nazionale. La vede come possibilità, De Bortoli? Le formule classiche sono state tutte sovvertite, perché parliamoci qua, è chiaro, Alessandro. Io credo che insomma qui sia anche la sconfitta degli analisti e degli stessi giornalisti che hanno indagato sulla realtà di questi mesi del nostro paese, probabilmente sottovalutando la giusta protesta dei cittadini, il senso di malessere diffuso, il fatto che non ci si può far imporre dall'Europa una ricetta. Quindi credo che è una riflessione che debbano fare tutti, anche a cominciare dai vincitori perdenti, che sono quelli del PD, insomma. E in qualche modo bisogna dialogare, perché la democrazia è fatta di dialogo, dialogare con il Movimento 5 Stelle, che ricordiamolo è il primo partito alla Camera. Sì. Il primo partito alla Camera, e mai avremmo pensato, per questo che il 25 febbraio resta scolpito nella storia, mai avremmo pensato che un movimento così riuscisse in così poco tempo a diventare il primo partito, molto di più di quanto non fece Berlusconi nel 94. A un certo momento, insomma, dopo la protesta, dopo lo sfogo, c'è la realtà dei problemi, e quindi si affronta. Sentiamo, e credo che siano anche persone responsabili. Su questo Gotor, su questo vuole interloquire, cioè la possibilità di interloquire col Movimento 5 Stelle? Ma dico, su questo io non ho dubbio, credo che sia necessario da un lato interloquire e dall'altro anche sfidare. Mi spiego, ci sono dei nodi che sono ineludibili, intorno ai quali è necessario appunto verificare la possibilità di dare una maggioranza e dunque un governo a questo paese, che resta la priorità. Uno, ad esempio, è la riforma elettorale, ma due è la questione dei costi della politica, da un lato. Ma e ad esempio, questa è una proposta del Partito Democratico che non è stata avallata nella legislatura passata dal PDL, una riduzione del numero dei parlamentari. Però mi scusi Gotor, la riforma elettorale non l'avete fatta, non voi, dico, nell'ultimo anno si diceva ogni settimana è la settimana decisiva, e poi quella successiva era la settimana decisiva più uno. I tagli non sono stati fatti, perché il Movimento 5 Stelle dovrebbe avere fiducia adesso in una piattaforma? Allora, i tagli sono stati fatti nella legislatura precedente, nel senso che sono stati aboliti i vitalizi e c'è stata una diminuzione dei contributi elettorali del 50%. Diciamo, questi sono dei dati di fatto. Però io credo, al di là di questo, che sia necessario mettere al centro di un'azione di governo, diciamo, una questione che è legata al lavoro, una questione sociale e una questione legata alla restituzione della credibilità della politica, a partire dal riconoscimento di un dato di fatto, cioè qui c'è una irresponsabilità di campagna elettorale, di temi che sono stati agitati, c'è una legge elettorale che è stata votata da Berlusconi, dalla Lega e da Fini, da Calvini, che ha prodotto uno scenario che è stato definito, io sono d'accordo, una tempesta perfetta. E invece la definizione di vincitori molto perdenti, grave, ma io vedo il pericolo all'Italia. Sì, certo, ma invece la definizione di vincitori perdenti che ha sentito da De Bortoli per il Partito Democratico, che come la giudica? Non l'avevo sentita. Ha detto così, i vincitori perdenti del Partito Democratico. Io certamente dico che abbiamo una responsabilità che ci deriva dal voto degli italiani. Serve una lucidità e anche un procedere passetto dopo passetto in una crisi difficile. Passo dopo passo. Il Partito Democratico ha la maggioranza alla Camera in termini assoluti e ha una maggioranza relativa al Senato. Mancano insieme ad esempio con Monti una quindicina o una ventina di senatori. Io credo che si sia il dovere e la possibilità di verificare su un programma per punti, poi possiamo trovare la forza, se si arriva insomma a questo 158, direttore De Bortoli, anche superare, perché la priorità è la priorità degli interessi, per carità, è giusto che uno ci provi, ma direttore mi sembra un po', non lo so, un discorso, un percorso un po' difficile, ecco, non lo vedo sui numeri che ho davanti, continuo ad arrovellarmi, poi per carità la politica è l'arte dei miracoli, ma direttore De Bortoli, ci si riuscirà? È un percorso velleitario certamente, però non ci si può non provare, insomma è chiaro che... Ma facendo come? Cioè, facendo scouting, come ha detto? Ma scouting è una brutta parola, perché se no torniamo irresponsabili ai passaggi di casacca da una parte e dall'altra, insomma anche... Non è escluso che questo possa accadere, però francamente lo escluderei. Forse è giusto che si mettano le carte sul tavolo, si tenti un dialogo tra tutte le parti. Credo che si possa convergere sulla riforma elettorale, sulla riduzione dei costi della politica, anche sulla necessità di dare un'immagine anche di serietà e di stabilità del nostro paese, insomma, perché è chiaro che gli osservatori stranieri sono molto ma molto perplessi. Lasciamo perdere i mercati, forse abbiamo parlato fin troppo dei mercati, insomma, in questi ultimi mesi, però insomma non riescono a capire l'anomalia italiana. Qui ci vuole fantasia, lucidità, realismo. Per esempio, faccio un solo esempio, i grillini potrebbero per esempio pretendere di trattare con gli altri, con il PDL, con il PD, magari pretendendo un rinnovamento delle persone, potrebbe esserci un passaggio alle seconde file, dove non c'è giovani. Riuscito Renzi, dove un rinnovamento sarebbe da questo punto di vista persino rivoluzionario, insomma. Dopodiché io credo che il buon senso alla fine prevarrà, perché questo è un paese di buon senso che ha dato uno schiaffone alla vecchia politica sonoro, uno schiaffone anche a tutti gli osservatori, a tutti gli analisti che in qualche modo sondano ogni giorno la realtà di questo paese. Un paese che sorprende, però è un segnale molto forte che va meditato, non va girato con la vecchia politica, con le vecchie ricette. Sì, altrimenti Grillo ottiene la prossima volta il 50%. Eccoci qua, siamo alle 8:49 minuti. Allora, poco fa anche Civati, Pippo Civati del Partito Democratico, ha detto Bersani si dimetta e si torni al voto. Questa almeno è la reazione di Civati. Ma insomma, ci avete capito qualcosa, cari ascoltatori? La situazione al Senato prevede al momento, visto che sono stati assegnati anche i senatori del Trentino, che al momento ci sono 119 senatori assegnati al centro-sinistra, 117 al centrodestra, 54 al Movimento 5 Stelle, 18 alla lista Monti. Mancano le assegnazioni ancora degli senatori all'estero, ma siccome la maggioranza si ottiene a 158, e uno anche se compone, che ne so, centrosinistra 119 più Monti, per esempio, e si arriva a 137, e sono ben lontani dai 158 della maggioranza, quindi non si capisce come si farà a comporre questa maggioranza. Allora, gli ultimi 5 minuti di questa parte con Marcello Foa, che voglio salutare. Buongiorno Marcello. Buongiorno Alessandro. Allora, Marcello, dopo tanti anni al giornale, ora sta in Svizzera, il direttore generale di T-Media, che è uno editore del Corriere del Ticino, per esempio il giornale quotidiano più diffuso nella Svizzera italiana, anche un esperto di strategie di comunicazione. Allora, intanto diamo dei voti. Chi ha avuto la strategia comunicativa migliore? Beppe Grillo, si può dire. Ma senza dubbio, è stato molto bravo e anche molto fortunato, perché c'è un dato che secondo me è un po' sfuggito. Se tu vai a prendere i sondaggi di un mese e mezzo fa, davano tutti Beppe Grillo un po' in discesa. Cioè è vero, è vero, è vero. Allora, chissà perché poi, chissà perché cosa aveva, in che calo era incappato? Ma no, perché gli italiani a un certo punto, al momento di votare, in epoca normale, votano per il... sono abbastanza conservatori, per cui si lasciano magari eccitare dai comizi, ma poi al momento buono votano in maniera prudente, a meno che non succeda qualcosa, e questo qualcosa è successo, cioè l'ondata di scandali dell'MPS, di Alfinmeccanica, Formigoni, eccetera, ha provocato un disgusto trasversale, un'indignazione molto forte, gli italiani sono un popolo abbastanza emotivo, e per cui Beppe Grillo è stato l'unico agli occhi di moltissimi italiani, come abbiamo visto, che legittimamente poteva rappresentare una politica diversa dai partiti con le mani davvero pulite. Eh sì, effettivamente io quando ironizzavo dicevo si svegliava al mattino, mette le mani nella vestaglia e trova 200.000 voti. Bastava aprire, bastava aprire i giornali, leggere degli scandali, erano tutti voti che venivano automaticamente portati al Movimento 5 Stelle. Questo però per dire che è solo un voto di protesta, io credo di no, ci sia anche un voto per rinnovare proprio la classe dirigenziale, o no? Senza dubbio, qui c'è un fenomeno secondo me sociologico, cioè in Italia oggi c'è un fenomeno trasversale, ovvero ci sono i giovani che non hanno futuro, i piccoli imprenditori che vedono svanire la loro azienda, gli operai che non trovano più posti di lavoro, i piccoli commercianti che vedono chiudere i negozi, i liberi professionisti che non hanno più parcelle. Qui non è più una lotta di classe, qua c'è un'intera fetta di Italia che vede incombere l'incubo della povertà, che non ha più speranza. E l'unico partito, l'unico movimento che ha saputo dar voce, saper interpretare per tempo questo malessere profondo è stato proprio Beppe Grillo, mentre gli altri partiti alla fine sono sempre rinchiusi su formule che erano vecchie, e lo stesso Berlusconi che ha fatto un risultato straordinario, però se noi andiamo a analizzare i voti, 5 anni fa aveva 48%. Però 5 mesi fa quanto aveva? Infatti oggi il titolo del giornale è Miracolo Berlusconi. Ecco, la mia domanda è questa, Marcello. Io ad un certo punto ho detto usciva anche dal frigorifero Berlusconi quando ti svegliavi la mattina invece che in TV. Eppure è proprio questo che ha pagato. C'è una super esposizione mediatica effettivamente. E come mai? Perché Berlusconi per un anno è rimasto un po' ai margini e poi è riuscito a tornare con la straordinaria esibizione, chiamiamola così, da Santoro, e Berlusconi è l'unico politico da sempre che sa toccare certe corde molto care agli italiani, o perlomeno a un certo pubblico di italiani. Berlusconi ha fatto il massimo che poteva ipotizzare, tranne, secondo me, un grave errore che probabilmente gli è costato la vittoria, e quella battuta che ha fatto con la giovane donna durante la presentazione. Ah, dici? Viene, quante volte sì, viene, perché, quella roba lì? Sì, perché c'era un'Italia di... magari solo l'1-2%, ma abbiamo visto che sarebbe stato sufficiente un pubblico moderato di opinione che quando ha visto quello siparietto ha detto allora Berlusconi non è cambiato e magari ha votato Grillo o Monti. E invece hanno preso anche il guru di Obama, Axelrod, gli hanno messo anche il cane Empi in braccio, gli hanno messo la birra da dare a Bignardi, ma non è evidentemente bastato. Mario Monti non ha sfondato, diciamo, dal punto di vista della comunicazione. No, un disastro, è stato un autentico disastro. Anche qui una regola molto semplice, non basta chiamare il guru americano in Italia se non conosci il tessuto sociale italiano, e questo gli esperti stranieri non si possono improvvisare. Ci provò anche Rutelli qualche anno fa e fu un disastro. Mario Monti esce veramente massacrato e secondo me meritatamente, perché francamente non aveva empatia, e perché gli italiani vedono in lui colui che nell'ultimo anno ha provocato la recessione. Ieri su Twitter uno ha twittato breaking news, è stato ritrovato abbandonato in autostrada il cane Empi. Si scherza ovviamente, per carità, non diciamo neanche, però è stato rilanciato da Tremonti che ha detto adottiamo il cane Empi, sempre su Twitter, prima che venga abbandonato in autostrada. Senti, abbiamo un minuto, Marcello, come apre il Corriere del Ticino e come dalla Svizzera ci guardate con questi occhi un po' straniti a questo paese un po' bizzarro che sta ai vostri confini? Ma il titolo riguarda ovviamente vince Grillo ma l'Italia è ingovernabile, pubblichiamo un'analisi su Beppe Grillo, è un commento davvero molto pungente di Piero Stellino, che abbiamo quale spesso addirittura ospite. Paragona l'Italia di oggi all'Italia alla Germania di Weimar, per cui con le presupposti per l'ascesa di un nuovo Hitler. Speriamo proprio di no, speriamo almeno questo Hitler in Italia ce lo risparmio. Marcello, io ti devo ringraziare, ti saluto. Marcello Foa, Ci fermiamo qui per quel che riguarda, ma adesso continua, arriva Simone Spezia, io rimango, forse sto qui, insomma, dirò qualche altra mia roba qua nei microfoni e quindi continua la maratona elettorale. 24 mattino normale torna domani dalle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.